fazzoletti bianchi che saluta nel nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanto felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento. Noi due innamorati come nessun al mondo. Dio, come ti amo, mi viene da piangere. Un bene così caro, un bene così vero.